Capitolo 4. La nostra festa del 5 novembre fu molto bella, malgrado la signora Graham ci avesse negato il privilegio della sua presenza. Probabilmente, anzi, al suo cospetto ci sarebbero state tra di noi meno spensieratezza, libertà e serenità. Mia madre fu come sempre piena di allegria, vivacità, voglia di chiacchierare, con l'unico limite di volere che tutti si sentissero a ogni costo soddisfatti, col risultato di forzare alcuni degli invitati a fare cose che non avrebbero voluto: mangiare, bere, sedersi vicino al camino o parlare quando avrebbero preferito stare zitti. Sopportarono tutti benissimo la cosa, comunque, dimostrando di essere nel giusto spirito festaiolo. Troneggiava sul gruppo il signor Millward, dispensando grandi postulati, battute moraleggianti, racconti solenni e oracoli vari, a beneficio di noi tutti, ma in particolare della venerante signora Markham, del cortese signor Lawrence, della placida Mary Millward e del bonario Richard Wilson e del pratico Robert, i suoi più ferventi ascoltatori. La signora Wilson era in grande forma, con la sua collezione di nuovi pettegolezzi e vecchie dicerie cucite insieme con commenti e osservazioni tendenziose, che continuava a snocciolare solo per il gusto di negare alle sue corde vocali un po' di riposo. Aveva con sé il lavoro a maglia e la voce sembrava gareggiare con la velocità delle dita. Sua figlia, Jane, faceva del proprio meglio per essere il più possibile attraente, raffinata, brillante e ammaliante. Attorno a lei erano riunite tutte le donne che voleva eclissare e tutti gli uomini che voleva conquistare, in particolare il signor Lawrence. Per raggiungere il suo obiettivo utilizzava maniere troppo acute e sottili che non ero in grado di riconoscere, ma di sicuro ostentava una certa superiorità e uno spregio che trasformavano i suoi lati positivi in negativi. Una volta che se ne fu andata, Rose mi svelò quello che nascondeva ogni sguardo e ogni gesto, dettagli che lei aveva colto con tale sagacia da farmi sorprendere tanto delle strategie della signorina Wilson che dei commenti di mia sorella. Arrivai a chiedermi se non avesse per caso messo anche lei gli occhi su quel gentiluomo, ma puoi star tranquillo, Holford, non era così. Il fratello minore di Jane, Richard Wilson, se ne restò tutto il tempo in disparte, contento di rimanere nell'ombra eppure curioso di ascoltare e osservare. Si sentiva forse un po' disorientato, ma credo che sarebbe stato comunque a suo agio se mia madre, con la sua fissazione di voler accontentare tutti quanti, non l'avesse tormentato ricoprendolo di attenzioni, offrendogli continuamente qualcosa da mangiare, convinta che fosse troppo timido per prendersela da sé, e infine costringendolo a risponderle a monosillabi e ad alta voce da una parte all'altra della stanza, quando gli faceva qualche domanda per coinvolgerlo nelle conversazioni. Rose ci raccontò che Richard non sarebbe neppure venuto se Jane non avesse tanto insistito, giacché desiderava a ogni costo far vedere al signor Lawrence che aveva anche un fratello civile oltre a Robert. Aveva tentato di scoraggiare quest'ultimo con altrettanto impegno, ma lui le aveva risposto che non vedeva per quale motivo avrebbe dovuto rinunciare a farsi due chiacchiere con Markham e la sua vecchia, anche se mia madre non era affatto vecchia, a dire il vero, con la Florida Rose, il reverendo e gli altri, che era un suo diritto, insomma. E infatti chiacchierò con mia madre e con Rose del più e del meno, discusse questioni di chiesa con il pastore e agricole con me e di politica con tutti e due. Anche Mary Millward stava spesso in silenzio, ma non era sempre forzatamente cortese come Dick Wilson. Dava infatti risposte piuttosto concise e secche, e per questo si diceva che fosse più chiusa che impacciata. In ogni caso, non sembrò trarre gran divertimento dalla nostra compagnia, né del resto ne offrì. Eliza mi confidò che era venuta solo dietro insistenza del padre, che riteneva che sua figlia dedicasse sin troppo tempo ai doveri familiari e troppo poco allo svago e al divertimento adatti alla sua età e al suo sesso. A me parve comunque di buon umore. In un paio di occasioni si lasciò sfuggire persino qualche risata e notai che guardava spesso in direzione di Richard Wilson, che era proprio di fronte a lei. Richard studiava con suo padre, quindi avevano un po' di confidenza e pensai una certa intesa. La mia Eliza era più che mai affascinante e maliziosa, e si capiva che la mia attenzione le importava molto più di quella di chiunque altro tra i presenti. Ogni volta che le andavo vicino, le dicevo qualcosa all'orecchio, le stringevo la mano o ballavo con lei, si illuminava di gioia e accelerava il respiro. Si vedeva bene nonostante lo dissimulasse con qualche gesto o parola. Ma in effetti farei meglio a tacere. Non vorrei darmi troppe arie e finire poi per dovermene vergognare. Continuiamo a passare in rassegna i personaggi della compagnia. Rose, a suo solito, era semplice, spontanea, allegra e vitale. Fergus era folle e inopportuno, cosa che divertiva un po' tutti e al tempo stesso aumentava la stima nei suoi confronti. Per finire, a parte me, c'era il signor Lawrence, gentile e cortese con tutti, ma in particolar modo con la padrona di casa e con sua figlia, e con la signorina Wilson. Che sciocco a non favorire Eliza Millward. Eravamo piuttosto in buoni rapporti, lui ed io, sebbene lui fosse per natura riservato, tanto da non uscire quasi mai dalla casa in cui era andato ad abitare dopo la morte del padre, e non particolarmente incline a fare nuove amicizie. Tra le sue conoscenze, ero il suo preferito. A me piaceva, eppure lo trovavo troppo freddo per potergli concedere una piena simpatia. La schiettezza e la spontaneità erano doti che ammirava negli altri quando non si accompagnavano alla maleducazione, ma proprio non riusciva a farle sue. Era molto riservato sulle sue questioni, cosa che a me pareva segno di arroganza, ma che gli perdonavo in quanto ritenevo che non dipendesse dall'orgoglio o da una mancanza di fiducia nei suoi amici, quanto piuttosto da un insolito pudore e da una naturale diffidenza di cui era consapevole egli stesso, pur non sapendo come superarla. E il suo cuore era come una pianta sensibile che si apre alla luce del sole per richiudersi su se stessa al primo soffio di vento o al più leggero tocco di dita. Posso dire che fossimo legati da una reciproca benevolenza, più che da un'amicizia profonda come quella che sarebbe nata in seguito tra me e te, Holford. Sebbene tu sia di tanto in tanto così mal disposto, ti paragonerei a un vecchio cappotto, in apparenza perfetto, eppure comodo e semplice, di quelli che prendono la forma del corpo di chi li indossa e che puoi usare tutte le volte che vuoi, senza timore di rovinarli. Mentre il signor Lawrence era più simile a un abito nuovo e perfetto a vedersi, di quelli che però hanno le maniche così corte e strette che hai paura di scucirlo se ti muovi troppo, e di una stoffa talmente liscia che non vorresti mai fargli prendere nemmeno una goccia di pioggia. Quando gli invitati furono arrivati tutti, mia madre nominò la signora Graham, dicendosi dispiaciuta che non fosse lì e riferendo loro quanto aveva detto circa le ragioni per cui non aveva potuto restituire le visite ai Millward e ai Wilson, che si scusava e non voleva assolutamente essere scortese. Di sicuro possiamo dire che sia una persona particolare, concluse mia madre, e voi forse, signor Lawrence, potrete aiutarci a capire che impressione ricavarne, dato che è una vostra inquilina e avete affermato di conoscerla. A quel punto ci voltammo tutti a guardarlo e il signor Lawrence parve a disagio. Io? Oh, ma no, signora Markham, disse, l'ho incontrata, certo, ma sono davvero l'ultima persona a cui chiedere lumi sulla signora Graham. Subito dopo chiese a Rose di suonare qualcosa al pianoforte o cantare una canzone. Sarebbe meglio chiederlo alla signorina Wilson, è quella che ha più talento musicale tra tutti noi, rispose mia sorella. La signorina Wilson protestò. E invece canterà, si intromise Fergus, sempre che voi, Lawrence, le stiate accanto e le giriate le pagine. Oh, lo farei volentieri, disse lui, accompagnandola al piano al quale lei suonò e cantò diverse canzoni. Lui teneva una mano sullo schienale della sedia e con l'altra le girava le pagine. Sembrava affascinato da quello spettacolo, tanto quanto lei. E in effetti, tutto sommato, era bello. Eppure non potevo dire di esserne colpito. Mi pareva che, al di là della bravura, mancasse il sentimento. Ma non avevamo di certo chiuso l'argomento della signora Graham. Per me niente vino, grazie signora, disse il reverendo. Piuttosto prenderò un po' della birra fermentata che fate voi, è la mia preferita. Raggiante per quel complimento, mia madre suonò il campanello e ordinò che venisse portata una caraffa della nostra birra per poterla offrire a chi ne apprezzava così tanto la qualità. Ah sì, proprio lei, inconfondibile, esclamò lui mentre la versava nel boccale dall'alto per fare più schiuma. La guardò controluce, alla fiamma di una candela, ne prese un bel sorso e dopo un profondo sospiro ne prese un altro. Mia madre lo guardava piena di soddisfazione. È davvero speciale, signora. L'ho sempre detto a tutti che non c'è bevanda migliore della vostra birra. Sono lieta che vi piaccia. Mi occupo sempre io della fermentazione, così come seguo anche la produzione del formaggio e quella del burro. Mi piace fare le cose per bene. Parole sante. Signor Millward, ditemi, non pensate che ci sia qualcosa di male nel bere un goccio di vino ogni tanto, o qualche altro alcolico, non è vero? Gli domandò, servendo un bicchiere di acqua e gin alla signora Wilson, che non poteva bere vino, poiché le restava sullo stomaco, mentre suo figlio Robert se ne stava giusto versando un bel po'. Assolutamente no, disse il saggio, scuotendo il capo. Queste sono tutte benedizioni, se siamo in grado di farne buon uso. La signora Graham, però, non la pensa così. State a sentire cosa ci ha detto qualche giorno fa. L'avevo avvisata che ve l'avrei raccontato. A quel punto mia madre intrattenne gli ospiti con un resoconto dettagliato di cosa la signora Graham avesse detto e fatto a riguardo, per concludere dicendo: Non pensate anche voi che sia un errore? Un errore? Un crimine, direi, disse il reverendo gravemente. Un crimine! Non solo sta ingannando il bambino, ma disprezza quel che ci dona la provvidenza e insegna a lui a fare lo stesso. Si dilungò parecchio sulla faccenda, spiegandoci perché e per come riteneva che il suo fosse un comportamento assurdo e profondamente sbagliato. Mia madre lo ascoltava con reverenza e anche la signora Wilson smise un attimo di parlare per ascoltarlo in silenzio, sorseggiando il suo bicchiere di acqua e gin. Il signor Lawrence, intanto, sedeva con un gomito sul tavolo e il calice di vino mezzo vuoto in mano e sorrideva tra sé. Signor Millward, non credete che se un bambino è incline alla sregolatezza, magari per errore dei genitori o di qualche avo che non ha conosciuto, sia preferibile usare qualche cautela in più? Il padre del signor Lawrence si diceva avesse accorciato la sua vita proprio a causa di una certa sregolatezza. Oh, qualche cautela, siamo d'accordo, ma un conto è la moderazione, un conto l'astinenza, caro mio. Per alcuni la moderazione, ossia la continenza, pare sia impossibile. E se davvero l'astinenza è un male, cosa che qualcuno ha messo in discussione, non si potrà negare che l'eccesso è un male peggiore. Ci sono genitori che proibiscono ai loro figli di assaggiare gli alcolici, eppure la loro autorità non dura per sempre. Si sa che i bambini vogliono quel che non possono avere. Ecco che in questo caso il bambino non vedrebbe l'ora di poter assaggiare quello di cui tutti gli hanno sempre parlato, ma che lui non ha potuto provare. Soddisferebbe questa curiosità appena possibile e una volta rotti gli indugi potrebbe andare incontro a gravi conseguenze. Oh, non voglio certo salire in cattedra sull'argomento. Tuttavia, signora Markham, il piano della signora Graham non mi sembra affatto insensato. Il piccolo in questa maniera soddisfa la sua curiosità e non è più vittima della tentazione. Non coltiva desideri proibiti, può accedere agli alcolici e non gli piacciono affatto. E tutto senza bisogno di subirne gli effetti. E lo trovate giusto? Non sono riuscito a convincervi quindi di quanto sia sbagliato e contrario alle scritture insegnare a un bambino a disprezzare i doni della provvidenza invece di disporne nel modo più corretto? Si potrebbe considerare anche il laudano un dono della provvidenza, rispose Lawrence con un sorriso. Eppure non potete negare che sarebbe sicuramente meglio astenersi dal consumarlo, fosse anche con moderazione. Ma per evitare che mi prendiate troppo sul serio, finirò subito il mio bicchiere, aggiunse. E ne gradirete subito un altro, spero, si offrì mia madre avvicinandogli la bottiglia. Il signor Lawrence rifiutò educatamente e si fece indietro sulla sedia. Io ero proprio alle sue spalle, sul divano accanto a Eliza Millward, e lui mi domandò se avessi conosciuto la signora Graham. L'ho incontrata in un paio di occasioni, sì, risposi. E che ve ne pare? Non direi che l'ho trovata piacevole. È bella, o per meglio dire, elegante e affascinante, ma di certo non alla mano. È incline a formarsi dei pregiudizi sugli altri e non li molla. Almeno così mi pare. Al punto da forzare ogni cosa purché confermi l'idea che se n'è fatta lei. Troppo severa, sagace e aspra per i miei gusti. Lui non replicò. Si limitò ad abbassare lo sguardo e mordersi le labbra prima di alzarsi per andare dalla signorina Wilson, deluso da me e attirato da lei. Al tempo non ci feci troppo caso, ma tornai sopra quell'episodio, così come anche sopra tanti altri apparentemente insignificanti episodi simili, quando... no, non voglio anticipare nulla. A fine serata danzammo e nonostante avessimo chiamato un violinista del paese per accompagnare i balli, il nostro venerabile parroco non si vergognò di partecipare. Mary Millward si guardò bene dall'unirsi a noi, come anche Richard Wilson, nonostante le insistenze di mia madre, che si offrì persino di fargli da compagna. Andò benissimo anche senza di loro e tra quadriglie e danze popolari finimmo la serata davvero molto tardi. Avevo appena chiesto ai musicisti di suonarci un valzer per far piroettare Eliza su quelle note deliziose, con anche Lawrence e Jane Wilson e Fergus con Rose, quando il reverendo ci interruppe. Basta così, non ammetto altre danze, è ora di andar via. Papà, lo pregò Eliza. Basta, ragazza mia, è ora. Ci vuole moderazione in ogni cosa, te ne ricordi? Così deve essere, e che la tua moderazione sia chiara a tutti gli uomini. Per dispetto, allora, seguii Eliza in corridoio e riconosco di aver commesso un errore. Con la scusa di aiutarla a infilare il soprabito, le rubai un bacio mentre suo padre si arrotolava la sciarpa attorno al collo. Purtroppo, girandomi, vidi che avevo dietro di me niente meno che mia madre. E dunque, appena andati via tutti, mi toccò una ramanzina piuttosto seria che mise un freno alle mie fantasie e chiuse la serata nel peggiore dei modi. Caro Gilbert, mi disse, io preferirei che non tenessi questo comportamento. Sai bene quanto mi stia a cuore il tuo interesse, sai quanto amore e ammirazione io provi per te. Vorrei vederti sistemato al meglio e mi piangerebbe il cuore se sposassi quella ragazza o qualsiasi altra delle ragazze che vivono qua attorno. Non è solo per la mancanza di soldi, ma anche perché manca di fascino, intelligenza e di bontà. Se solo ti vedessi con i miei occhi, apprezzeresti il tuo valore. Aspetta ancora un po'. Se ti impegnassi con lei, potresti pentirtene amaramente. Ci sono tante altre donne migliori di lei. Dammi ascolto. D'accordo, mamma, ma ora basta. Non sopporto queste ramanzine. Ti ho già detto che non ho ancora intenzione di sposarmi, ma avrò ben diritto a divertirmi un po'. Sicuro, ma non così? Se fosse una ragazza per bene, la faresti anche soffrire. Ma in questo caso, credimi. Hai a che fare con una più che scaltra che ti attirerà in trappola senza che tu nemmeno te ne accorga. Se la sposerai, mi spezzerai il cuore. Così è, Gilbert. Su via, mamma, non piangere, le dissi, vedendole le lacrime agli occhi. Che questo bacio ti faccia scordare quello che ho dato a Eliza. Non prenderla così in antipatia e cerca di star tranquilla. Ti prometto che non... che ci rifletterò e non farò nessun passo avventato senza prima averne parlato con te. Poi... accesi la candela e mi ritirai in camera piuttosto abbattuto. Capitolo 5. Alla fine del mese, dopo molta insistenza da parte sua, accompagnai Rose in visita a Wildfell Hall. Ci fecero inaspettatamente accomodare in una stanza dove trovammo un cavalletto da pittore e varie boccette di olio e colori, tele e, poggiate contro il muro, diverse opere ancora non finite che raffiguravano in particolare paesaggi e figure umane. Sono costretta a ricevervi nel mio studio, poiché in salotto il camino non è acceso ed è troppo freddo per metterci in una stanza senza il fuoco, disse la signora Graham. Liberò due sedie dai vari strumenti d'artista che le occupavano e si mise di fronte al cavalletto, o meglio, non proprio di fronte, per ritoccarlo con qualche pennellata ogni tanto mentre conversava con noi. Sembrava che le riuscisse impossibile distogliere la sua attenzione dal quadro per dedicarla esclusivamente a noi. Era Wildfell Hall vista dal basso al mattino, una sagoma scura contro un cielo chiaro attraversato da lunghe strisce rosate, una rappresentazione molto ben fatta sia nei tratti che nei colori. Siete molto presa da questo lavoro, noto, commentai. Vi prego, non interrompetevi. Se la nostra presenza finisse per distogliervi definitivamente, ci sentiremmo di avervi disturbata sin troppo. Ma no, rispose lei, gettando via il pennello come improvvisamente rinsavita una certa educazione. Non ricevo poi così tante visite da non potermi concedere la distrazione di qualche minuto con i pochi che mi onorano della loro compagnia. È quasi terminato, mi pare, notai avvicinandomi al dipinto più interessato e ammirato di quanto volessi dare a vedere. Un paio di rifiniture qui al primo piano e sarà finito, direi. Ma come mai c'è scritto Fernley Manor Cumberland e non Wildfell Hall? Domandai, vedendo una piccola didascalia in basso. Realizzai di essere stato inopportuno quando la vidi arrossire. Dopo una breve esitazione, rispose in uno scoppio di sincerità: Perché ci sono alcuni amici, alcuni conoscenti a cui non voglio far sapere dove vivo. Se dovessero vedere il quadro, potrebbero riconoscere il mio stile, malgrado le iniziali fasulle che ho messo qui nell'angolo. Preferisco essere cauta e scrivere un nome diverso anche del luogo, così che non possano trovarmi. Quindi non volete tenere per voi questo dipinto? Chiesi allora per cambiare argomento. No, non sono nelle condizioni di poter dipingere per passione. Mamma spedisce i suoi quadri a Londra, disse Arthur. C'è una persona che glieli vende e poi ci manda i soldi. Mi guardai attorno e notai una bella raffigurazione di Lindenhope vista dalla cima della collina. Poi un'altra immagine della vecchia dimora, raffigurata in quel caso sotto il sole di un pomeriggio d'estate. E infine il ritratto semplice eppure molto bello di un bambino che guarda un mazzo di fiori appassiti con espressione triste e sofferente. Sullo sfondo un panorama di colline e campi scuri e autunnali, e su di lui un cielo pieno di nuvole, cupo. Il soggetto non varia molto, come vedete, disse l'affascinante pittrice. Ho raffigurato questa vecchia casa sotto la luna e la dipingerò ancora sotto la neve. Poi, in una sera buia e coperta, perché non ho molto altro da ritrarre in effetti, ho saputo che ci sono dei bei paesaggi di mare qui intorno e così. Ci si arriva anche a piedi? Sì, se ve la sentite di camminare per 4 miglia. Circa 8 tra andata e ritorno. La strada è piuttosto malmessa. Da che parte? Le dissi dove andare e iniziai a dare indicazioni via via più dettagliate sulla strada da fare, le curve a destra, quelle a sinistra, quando mi interruppe bruscamente. Basta, basta, basta così. È inutile che me lo diciate ora. Per quando mi servirà me ne sarò scordata. Non penso di andarci finché non arriva la primavera e al momento dobbiamo ancora superare l'inverno. Poi d'improvviso si alzò. E reprimendo un'esclamazione, uscì dalla stanza e si chiuse la porta alle spalle. Vogliate scusarmi un istante? Interessato a sapere cosa avesse attirato tanto la sua attenzione, sbirciai oltre il vetro della finestra che lei stessa stava fissando fino a qualche momento prima, in tempo per scorgere un cappotto maschile che spariva dietro un agrifoglio vicino alla veranda. È l'amico di mamma, disse Arthur. Rose e io ci guardammo in silenzio. Io non so davvero che pensare di lei, mi sussurrò Rose. Il bambino la guardò meravigliato e un poco offeso. A quel punto Rose lo tenne impegnato cambiando argomento mentre io guardavo gli altri quadri. Ne notai uno che non avevo visto prima, un bambinetto seduto su un prato con tanti fiori in grembo. Mi bastò una sola occhiata ai lineamenti delicati, agli occhi azzurri e ai riccioli castani per notare una netta somiglianza con quel giovane fanciullo che avevo ora davanti e capire che si trattava di un ritratto di Arthur da piccolo. Tirai su il quadro per vederlo alla luce e ne trovai un altro subito dietro, che però era rivolto verso il muro. Sollevai anche quello. Era il ritratto di un giovane uomo, un dipinto sicuramente ben fatto, ma ammesso che la mano fosse la stessa degli altri dipinti, doveva risalire a qualche anno prima, poiché dimostrava una maggiore attenzione ai dettagli e la tecnica non rivelava la stessa libertà nel tratto e nell'uso del colore che avrebbe conquistato in seguito. Eppure lo guardai con molto interesse. Mi sembrava che i lineamenti e lo sguardo del soggetto fossero particolareggiati al punto da aver colto di sicuro una certa rassomiglianza con l'originale. Occhi azzurri e vivaci che guardavano verso lo spettatore con un'espressione divertita, quasi maliziosa. Anche le labbra, piene e voluttuose, parevano sul punto di schiudersi in un sorriso. Le guance erano colorite e incorniciate da un paio di basette rosse, mentre i capelli ricadevano sulla fronte del soggetto in morbidi ricci ramati. Forse egli teneva di più al suo aspetto che alla sua intelligenza. Magari aveva ragione. Eppure non sembrava affatto uno stupido. Tenevo quel quadro in mano da qualche minuto quando la bella pittrice rientrò. Una persona venuta per i miei lavori, disse quasi a volersi giustificare. Le ho chiesto di aspettare. Giudicherete inopportuno che un visitatore si metta a guardare un quadro che l'artista ha rivolto contro il muro, ma posso chiedervi... Lo è, infatti, mio caro signore, molto inopportuno. Quindi vi prego di non chiedermi nulla, già che qualsiasi sia la vostra curiosità, non potrò soddisfarla. Mi rispose celando dietro il sorriso un chiaro rimprovero, ma capii dal modo in cui era arrossita e dal suo sguardo acceso quanto fosse arrabbiata. Volevo solo sapere se è opera vostra, le dissi, restituendole il quadro con aria dimessa. Lei lo prese subito e andò a rimetterlo in un angolo rivolto alla parete come prima. Poi si girò a guardarmi e rise. Io però non ero dell'umore di scherzare. Rivolsi quindi lo sguardo verso il giardino, oltre la finestra, e lasciai che la signora chiacchierasse con Rose. Poi dissi a mia sorella che era tempo di andarcene, strinsi la mano al piccolo e mi congedai dalla signora con un freddo inchino. Dopo qualche passo ci raggiunse e mi disse: Signor Markham, spero che il sole oggi non tramonti, lasciandovi arrabbiato. Mi scuso se posso avervi offeso con la mia brusca reazione. Se una signora si scusa, non c'è motivo di continuare a essere arrabbiati. E per la prima volta ci salutammo in modo amichevole e le diedi una stretta di mano gentile e non velenosa.